c'è il mare, coi gabbiani, Mediterraneo da vedere, con le arance, Mediterraneo da mangiare, la montagna là e la strada che piano vien giù tra i pini e il sole, un paese Mediterraneo da scoprire, con le chiese Mediterraneo da pregare. Siedi qui e getta lo sguardo giù tra gli ulivi, l'acqua è scura quasi blu, e lassù vola un falco, lassù sembra guardi noi fermi così grandi come mai. Oh, guarda là quella nuvola che va, quella lunga scia della gente in silenzio per via che prega piano sotto il sole Mediterraneo da soffrire, sotto il sole.